una straniera intraprendente, la donna che cambiò Gesù. La narrazione evangelica non teme di riferire di un incontro che ha aiutato il Messia a mettere a fuoco la sua stessa vocazione. Viene ricordata la fatica di quel dialogo, segnato da infingimenti, irrigidimenti, incomprensioni. È un autentico confronto dove gli interlocutori, Gesù per primo, si mettono in gioco e ne escono da questo confronto profondamente cambiati. Il dialogo in contrapposizione, due sguardi diversi sulla fede e si confrontano apparentemente in un dialogo, in una contrapposizione che sembra inconciliabile. Difatti, da una parte c'è Gesù, che sente se stesso vincolato dalla sua appartenenza. Non è tempo di spreco. Dalla crisi bisogna ottimizzare le risorse. Non si può salvare il mondo intero. Occorre darsi delle priorità. Questo è l'atteggiamento di Gesù. E i figli di Israele hanno solo lui. Sono pecore sperdute, senza pastore. Dall'altra parte c'è il desiderio, la determinazione di una donna che rivendica udienza. Solo il suo biglietto di visita è il dolore o la disperazione per la figlia malata. Tra le due contrapposizioni, quella di Gesù e quella della donna, due posizioni di contrasto, sembra meno forte di quanto apparentemente la narrazione potrebbe far supporre a prima vista. Infatti Gesù si è spinto oltre il confine, ha sconfinato. Davvero era venuto unicamente per i suoi? L'incontro con la donna cananea lo conferma in quella intuizione che lo ha spinto a sconfinare dal suo territorio. E quando dico territorio, dico tutta una cultura, una religiosità, un'obbedienza alla Torah, alla legge. Faccio alcune osservazioni. La narrazione scardina convinzioni, apre nuove prospettive, suscita domande e attende risposte da chi ascolta. Una donna chiede aiuto a Gesù. È tremendo. E questi la respinge con parole dure. Lei insiste e discute con sapienza una donna semplice, col suo dolore. Con sapienza le affermazioni del maestro, le contesta. La finezza della sua argomentazione è tremenda, perché spinge Gesù a rivedere la propria posizione e a concedere la guarigione della figlia. Lo scandalo di questo racconto sta nel fatto che le durissime parole di Gesù non sono rivolte a persone religiose potenti, ma a una donna, una madre, con il suo dolore. Poco importa che sia donna pagana, forse idolatra o comunque qualcosa d'altro, è pur sempre una madre. Aggiungo, questa storia sembra suggerire che prima ancora di fare esperienze dell'amore universale, che comunque coinvolge ogni persona sulla terra, i mortali, noi tutti quanti, facciamo i conti con l'universalità del male. Un male che colpisce indistintamente. Il male non conosce confini, non conosce appartenenze, non conosce fedi, non conosce forme religiose, non conosce le barriere, il dolore. Io sono venuto per le pecore perdute in Israele. Non è bene che si diano le briciole ai cani. Ma sente dire anche Israele è contaminato dalle genti. Le genti è l'espressione per dire pagani. I cani e i figli abitano lo stesso spazio vitale. A pensare a questo. Questo mi porta a concludere così, un po' critico. I più vicini a Gesù, ci rivelano i Vangeli, sono i più lontani. E colei che dovrebbe essere più lontana aiuta il Messia a sciogliere quella tensione tra chiamata particolare e missione universale, che lo spingerà alla fine della sua missione a mandare i discepoli in ogni angolo della terra. E così ogni persona, comunque, a richiamare la vocazione del Messia come colui che guarda al volto di una persona più che di un'appartenenza di fede. Donna, davvero grande la tua fede. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo.